Ciao, ciao a tutti, siamo su Radio Wombat e io vi dico che oggi proprio siamo nella merda. Cosa succede giù in città? Ma chi lo sa? Ma chi lo sa? Quel che di bello c'è in città lo trovi sulla punta. La trapunta. 1, 2, 3, 4. Eccoci qua. Ed ecco una nuova sigla che iniziamo questo. Finiamo questo gennaio, anzi. Buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Si è fatto attendere. C'è Crippo, si è fatto attendere questa, però ne valsa la pena, se posso essere sincero. Ma insomma, ne valsa la pena, no? Dal mio punto di vista ne valsa veramente la pena. Valutate voi. Non è... Molto molto bello, questa è l'ultima creazione di Crippo, e oramai è ufficialmente il jingolista di Radio Wombat. Bene, bene, eccoci bene, qua. Caro Crippo, come stai? È un sacco che non ci sentiamo a questi microfoni. Bene. Ieri sera, cioè, insomma, via. Bene, dai, diciamo bene. Però dai, sparala, cos'è che non va? No, ragazzi, cioè, capisco, è una radio di movimento, noi di sport, non però... ci interessa. Però come io no, tipo Lakers, porca troia, cioè, nel senso... Ieri volevo spararmi la maratona di Mentana, no? Cioè, per le lezioni... Però c'è stato un inconveniente. È morto Kobe Bryant. No, cioè, ragazzi, io... Cioè... È in lutto. Sì, sono in lutto. Va bene, noi proclamiamo lutto di Radio Wombat per Kobe Bryant. Ma che, vaia, ma no. Che era lutto. Ma scusa, ma i Lakers non sono quella squadra autogestita? Ma in quella che lega autogestita? Sono tipo la Juve del basket, però... Però nulla, cioè, io quando ero bambino mi piace basket. Va bene, facciamo così. Ieri era il 26 di gennaio, giusto? Quindi è morto Kobe Bryant. Per l'appunto, ieri era anche un anniversario. Era l'anniversario della liberazione di Kobane. Era 5 anni fa quando fu liberata Kobane, esattamente il 26 di gennaio del 2015. E venne rivelata... Quindi Cannibale il Re, che noi abbiamo per tante puntate, anche di Fuoco alle Polveri, ma anche della Trapunta, ci è capitato, letto degli spunti, soprattutto da Cronache Ribelli. Da Cronache Ribelli, sì. Cannibale il Re giustamente ci ricordava ieri il sacrificio dei martiri che hanno liberato Kobane, in particolare di Arin Mikran, che con il suo sacrificio distrusse un carro armato e uccise una dozzina di miliziani di Daesh proprio alle porte di Kobane. E, naturalmente, poi sappiamo bene Kobane come è andata. È stata prima aggredita e qua è conquistata a metà dall'ISIS, poi riconquistata dai miliziani che hanno finito per liberare tutta la città. Questo è costato sicuramente tanti morti a Daesh, ma altrettanti martiri sono costati alla causa curda e alla città di Kobane, che ancora oggi porta affissi le immagini di questi eroi che hanno liberato una città stretta sotto un assedio veramente, veramente duro. Quindi con questo noi ci introduciamo. Beh, ben un più po'... importante di quello. Sì, diciamo che va bene, però anche Kobe Bryant, Kobane, c'è anche una certa assonanza. Si potrà ricordare bene, ora basta parlare di basket, insomma. Andiamo a Illesso, dai. Andiamo a Illesso, come diresti te. Sì, andiamo a quello che è successo la settimana scorsa, fondamentalmente. Abbiamo due piccoli stralci di notizie. Dalla Firenze di Movimento. Uno in particolare, si sta parlando di una coalizione che è nata una settimana fa. Si parla di Via Incontri. Di Via Incontri. Esatto, e Via Incontri è una situazione molto particolare a Careggi, proprio dietro al CTO. È stata occupata una settimana fa, era lunedì scorso, dal movimento di lotta per la casa, con circa una quindicina di persone, fra quali minori. famiglie, un gruppo un po' misto, un no? gruppo, cioè, un po' misto, varie nazionalità, storie varie, molto, però comunque tutte molto simili, tutte persone in una fortissima emergenza abitativa. Visto che nella nostra città questa questione non viene affrontata dall'amministrazione, visto che si susseguono sgomberi su sgomberi di fronte a persone che ogni volta, quasi ogni mese, si ritrovano fuori, si ritrovano in strada, e non solo in strada, ma con le poche cose che erano riuscite a racimolare, chiuse dentro i palazzi murati. Quindi quella casa è molto bella, su via Incontri, esattamente dietro al CTO, no? Esatto, ci sono, è proprio dietro al CTO, fra l'altro è una casa particolare, vi era un progetto, la proprietà è dell'INAIL, vi era su un progetto di farne... Ci sono stati lavori per diversi anni. In verità i lavori non ci sono stati. C'erano le transenne però. Era stato transennato, sì, perché l'ultimo inquilino è stato sfrattato 2 anni fa, era un certo Giuseppe Banchi, e era marito, il ex marito della defunta Gabriella, che ha abitato in quella casa e ha fatto sì che in quella casa ci fosse un gran circolo di attivisti. Soprattutto abbiamo visto lì nascere Medicina Democratica, l'associazione toscana Paraplegici, la ADINA, l'associazione per i diritti, per la tutela dei diritti delle persone disabili, ha avuto una lunga storia lì. E quindi dopo lo sgombero si trovava abbandonata da 2 anni. Gli unici lavori che sono stati fatti è stata murata un'arcata che fra l'altro chiudeva un loggiato bellissimo, è una colonia, una vecchia casa contadina, è stata murata per far sì che non ci andasse dentro persone a dormire. Noi abbiamo la notizia è uscita su varie testate, su Stamp Toscana, su Firenze Today, il loro solito pronto populismo. Noi siamo andati a trovarli, siamo andati a sentire che cosa avevano da dire, e è stato pubblicato ieri un post sul blog. Così ne approfittiamo anche per dare i nostri contatti sul blog wombat.noblogs.org. Ieri, la data di ieri, potete trovare un articolo che con le voci del Movimento di Lotta per la Casa e di ADINA, della presidente di ADINA, Anna Locatelli, Anna Nocentini, scusatemi, e niente, sgranatevelo. L'immobile versa in condizioni non ottime, è freddo, vuoto. Sì, non ottime, ma neanche pessime. Però nonostante questo la necessità degli occupanti è estrema, quindi c'è bisogno materassi, reti, stufe, vestiti, cibo, anche manodopera, perché ci sono alcuni lavori da risistemare. C'è una cappa di un camino che è scoppiata, e quindi cioè, anche un po' pericoloso per nottarci, dormirci con le stufe accese. Quindi legna, veramente c'è bisogno di tutto. La solidarietà c'è stata da tanti e tante, però questo sicuramente non è sufficiente. Sono persone che hanno ce ne vuole un di estremo più bisogno, sì. Certo. Quindi questo un po' un ricapitolo di quanto dell'ultima occupazione fiorentina, ma non fra non le ultime cose che noi stiamo seguendo. Abbiamo anche la questione Piazza Tasso, stanzina bambini, eccetera eccetera, al collettivo di Laddarno. Abbiamo un estratto dalla giornata di domenica, che c'è stata un'assemblea, sì, per trattare la questione. Noi ormai la seguiamo da diverso tempo con la trapunta. Sì, esatto, questa stanza che era abbandonata anche questa da anni, da più di 2 anni rispetto a Via Incontri, era abbandonata da 3-4-5 anni. È una stanza di proprietà del comune, che in teoria doveva essere dedicata ai bambini, all'infanzia, però abbandonata e dedicata veramente a poco. E un gruppo di persone capeggiate un po' dal laboratorio di Laddarno, questa assemblea, questo collettivo nato pochi mesi fa, che si sta occupando dei processi di gentrificazione e della riappropriazione degli spazi e della riprogettazione urbanistica del quartiere di San Frediano. Quindi fondamentalmente ieri c'è stata una assemblea la mattina, seguita da un pranzo sociale, per capire se vi è una comunità intorno a questo luogo fisico per poterlo iscrivere nel registro dei beni comuni. Ma questo ce lo dirà sicuramente meglio Pietro, del collettivo 404, che sta lavorando insieme al laboratorio di Laddarno e all'occupazione di Via del Leone. Ce lo sentiamo? Ce lo sentiamo, poi magari dopo, forse a te è arrivata sul telefonino una cosa... Un'altra cosa, sì. Bene, vogliamo parlare subito di quella e poi dopo si manda di Laddarno? No, andiamo con di Laddarno secondo me, e poi dopo facciamo... E andiamo di Laddarno. Ci sgraniamo, vai. Buon Piero. Wombat. Dai, eh? Salve a tutte le persone che ascoltano, io sono Pietro del collettivo 404 e del laboratorio di Laddarno e mando questo breve audio per fare il punto della situazione circa l'assemblea di stamattina del 26 gennaio in Piazza Tasso. Per oggi, infatti, era stata chiamata dal laboratorio di Laddarno un'assemblea aperta alle 11 in Piazza Tasso. Per misurare in qualche modo, per sondare la comunità degli abitanti di San Frediano e dell'Orterno tutto, circa la possibilità di realizzare un patto di collaborazione con il comune per trasformare la stanzina dei bambini appunto in un bene comune. La stanzina dei bambini è un luogo centrale è stato un luogo importantissimo, centrale per quasi 30 anni per la comunità di San Frediano, un piccolo spazio proprio all'angolo di Piazza Tasso e di Via del Leone e da circa 5-6 anni è chiuso, fermo, inutilizzabile. Così da quando il laboratorio di Laddarno è nato, quindi dall'inizio di quest'anno scolastico e soprattutto dal 30 novembre, quando abbiamo realizzato una giornata di progettazione partecipata di Piazza Tasso, che ha sottolineato proprio l'importanza di quel luogo, appunto il laboratorio di Laddarno ha iniziato a tentare di riappropriarsene. Non per noi, come dice lo slogan e come crediamo molto, non per noi, ma per tutti e tutte le persone che abitano in San Frediano. Quindi il 4, il 5 e il 6 abbiamo riaperto la stanzina e abbiamo tenuto una bella festa molto partecipata, appunto l'Epifania Popolare il 6 gennaio. Dopo questa Epifania Popolare, il quartiere ha richiuso la stanzina con un atto di forza quasi, insomma, una dimostrazione di forza ridicola, risottraendola di nuovo alla partecipazione popolare. Quindi per oggi è stata chiamata questa assemblea, che è stata molto partecipata, un successo, in cui sono intervenute numerose realtà, associazioni del territorio come il Le Boschi, l'Associazione del Giardino dei Amici dei Nidiaci, il Fuori Binario, l'Associazione Periferia al Centro e anche membri di gruppi informali come i comitati appunto che agiscono in di Laddarno, che sono tanti, e abbiamo iniziato a ragionare di come ottenere questo bene attraverso proprio lo strumento del regolamento Labras e dei patti di collaborazione del bene comune. La giornata è stata un successo e presto tenteremo proprio di realizzare questo progetto, integrando tutte le varie realtà e niente, io quindi sono contento, vi saluto e rimando alla partecipazione, vi invito tutte e tutti alla partecipazione all'assemblea del laboratorio di Laddarno il martedì alle 9 e buona giornata. Anche le foche bevono Radio Wombat. E rieccoci rientrati. Avete sentito? Grazie a Pietro, Collettivo 404, sempre disponibile per rilasciare dichiarazioni. Ottimo lavoro quello che stanno facendo in Piazza Tasso, fra l'altro, veramente bravi. Speriamo bene, Bravi, insomma. bravi. Massimo sostegno, massimo stima, massimo tutto. Viva. Massimo volume anche. No. Massimo volume! No. Abbiamo invece un contributo di un altro compagno, di un altro spazio che si apre sul grigiore di questa città, per riempirlo di arte, di socialità, Dai, è vero. di cose belle. Vi leggo anche un po' di infamate che ci ha mandato il nostro amico, poiché l'abbiamo chiamato un attimino Dai, all'ultimo, ci ha abbiamo chiamato. scritto Tant'è, Madonna, quando sono malato a letto 10 minuti fai un vocale in radio. Queste sono le infamate. Questo invece è il vocale, ve lo mando immediatamente. Abbiamo un minutino per parlare appunto del laboratorio nuovo che verrà aperto dai sempre attivissimi. È stato aperto, è stato presentato venerdì. Sì, è stato perché verrà il giovedì, sarà esatto. Attivo da ora in poi presso l'occupazione di Viale Corsica. In Viale Corsica 81. E sentiamo il nostro amico che ci infama, no, non ci infama, cioè, ci spiega che cosa è successo. Allora, per chi avrebbe perso l'inaugurazione di venerdì in Viale Corsica 81, questo giovedì apriamo per la prima volta il laboratorio d'arte in Viale Corsica, laboratorio 81, da definire il nome tutti insieme, dove presenteremo più che altro, inizieremo finalmente a poter esprimerci in una dinamica dove qualunque persona sia di livello o senza conoscenze basse o anche alte può avere lo spazio per quanto tempo volesse e tutti i materiali disponibili da tutte le tecniche, sia da pittura, scultura, materiali di riciclaggio, a incisioni e tutto quello che vuole, c'ha questo spazio a disposizione insieme a noi per poter creare qualcosa insieme, sia per progetti personali, ma quanto si vorrebbe anche creare un progetto in comune a lungo termine. Questo non vuol dire che i progetti personali non c'hanno una destinazione, ma comunque speriamo di creare qualcosa insieme. Vi aspettiamo giovedì. Aspettiamo giovedì non solo, ma con ansia, fra l'altro. Io l'ho visto, il laboratorio, è bellissimo. Soprattutto bella gente, bella situazione, sì, conviviale, sì. La situazione ideale per poter far nascere qualcosa. Ora, nel vocale diceva appunto, come avevo detto io, che è da questo giovedì, però la presentazione c'è stata in realtà sabato, una serata molto carina. Venerdì con una serata molto... Non l'abbiamo detto settimana scorsa, ma è colpa loro che non l'hanno caricato. Che sulla punta non... in tempo, quindi vabbè. Cazzo loro. Sì, cazzi loro, però intanto insomma l'abbiamo detto, tanto il sodo si farà i giovedì d'ora in poi, ecco, insomma, la sostanza. Si va con pezzo? Io andrei con un pezzettino per alleggerire la cosa di un cantautore toscano che ha fatto uscire un album proprio adesso. Vai, poi torniamo con la rassegna eventi. Si chiama? Sì, si chiama Lucio Corsi e la canzone si intitola Senza titolo. E niente, ce lo spariamo. Vai. Wombat. Avevo una ragazza che non era acqua, non si poteva bere. Avevo un cane che non era una moto, non si poteva guidare. Avevo un amico che era troppo secco, col vento volava. Ho conosciuto un pesce a cui piaceva parlare, lo faceva mentre nuotava. Ho saputo di un topo che si è salvato dagli attacchi di un serpente. Adesso è libero, c'è chi dice sia a Parigi, è un topo pulito e intelligente. E quando guarda la torre, ripensa a Milano e alla sua prima casa. E mentre guarda la torre, inclina la testa per sentirsi a Pisa. Avevo una penna che non funzionava e l'ho buttata dentro al secchio. Ho avuto una storia che non andava, ma la tengo nel cervello. Avevo l'automobile ma non guidavo perché avevo una gomma bucata. Ho conosciuto una lumaca che sognava bistecche, ma mangiava insalata. E quando guarda le foglie, ripensa a Firenze e alla sua prima casa. E mentre guarda le foglie della foresta pluviale, sogna il cinghiale. Alla scuola superiore avevo un professore che non era saggio. Un mio compagno di classe non era un pallone, ma era bravo a calcio. Ripensando al professore che non era saggio, forse per questo insegnava. Ripensando al mio compagno che era bravo a calcio, aveva quattro gambe e nessun braccio. E quando guarda la porta, ripensa alla porta della sua prima casa, dove un giorno entrarono i ladri e gli rubarono tutto, tranne l'ombra dei quadri. La ragazza che non era acqua mi fece affogare senza una scusa. A volte usare l'immaginazione stanca, ma è stancante anche chi non la usa. Ho saputo che ieri un vaso si è buttato da un terrazzo gridando il vento è come il treno. Poetico ma rompe il cazzo, e quando si frantumò per terra ripensò alla pianta ora senza una casa. Ma la pianta con grande prontezza riattaccò tutti i pezzi per finire in bellezza. Rassegna eventi. Sei pronto, Bracco? Pronto per la rassegna eventi a partire dalla punta.org, lo sanno tutti e tutte, è una piattaforma autogestita nata a Firenze questa estate, presentata era il 3 di agosto nella calda Piazza Giorgini, quando è uscita al mondo la presenza di questa piattaforma in città. Si inizia da martedì 28 gennaio alle ore 19 presso l'SMS di Rifredi in via Vittorio Emanuele II al numero 333, vi è l'assemblea dei ricercatori determinati Firenze. In seguito fondamentalmente alla dimissione dell'ex ministro dell'istruzione Fioramonti, dottorandi, ricercatori e ricercatrici dell'Università di Pisa, riuniti sotto le sigle ricercatori determinati, hanno lanciato una data di mobilitazione per il 9 gennaio. Quindi sono più di 10 atenei e in vista di questa mobilitazione abbiamo questa assemblea. Ripeto, martedì 28 gennaio alle ore 19 all'SMS di Rifredi. Si continua mercoledì 29 gennaio con una cena sociale di finanziamento all'Ateneo Libertario di Firenze in Borgo Pinti 50R rosso, una cena preparata dalla rete di cinolino clandestino con i prodotti della rete di cinolino clandestino, prodotti biologici di qualità e svincolati dalla pura logica di mercato. Si può prenotare scrivendo Ateneo Libertario Firenze @inventati.org. Il contributo è di 13 euro e c'è un menù abbastanza ghiotto: minestra di pane vecchio alla maniera toscana con pane di Mondeggi, polpette di fagioli al forno con salsa di zafferano ed insalata piccantina. Questo piccantino mi incuriosisce. Torta di mele del Trentino e pane di Mondeggi e vino a volontà. Evviva! Sì, tocca a me, scusate. Sì, tocca a te. Mercoledì 29 gennaio alle ore 21 abbiamo l'ormai consueto appuntamento con il cinema allo studentato Ponte di Mezzo, in via del Ponte di Mezzo 27. Questa settimana viene proiettato Persepolis. Naturalmente vi sarà qualcosa da sgranocchiare durante la proiezione, birrette fresche e anche due parole di discussione alla fine del film. Ripeto, studentato autogestito PDM 27, mercoledì 29 gennaio alle ore 21. E sempre se volete sgranare, io sono su questa linea qua. E il Melograno propone una cena con cumbia. Il Melograno è un'associazione in via Retina 513, dalle 21 alle ore 1 ci sarà una cena veg e a seguire lo scumbieros della cuna, cumbia salsa i mas i daie. Giovedì 30 gennaio alle 17.30 fino alle 20.30 circa presso l'università in Brunelleschi, piazza Brunelleschi, abbiamo Che cosa succede in Iraq? Le rivolte di piazza Tahrir da ottobre ad oggi. Questo è Rise Up for Rojava che lo organizza. Tra l'altro lo approfondiremo in seguito, abbiamo qua un ospite. Ospite invece il 30 gennaio saranno due, Farzal Jaber, attivista e archeologo iracheno, e Arianna Pagani, che è una reporter coautrice del reportage per Arte TV. Non perdetevi il seguito della puntata, che lo approfondiremo con un compagno fiorentino. Io invece frego la bicicletta a Briccobaldo per giovedì 30 gennaio dalle 18.30 alle 21, piazza Santissima Annunziata. Come ogni ultimo giovedì del mese si pedala in modo diverso, si pedala in massa. La Critical Mass, attiva dagli anni 90, viene da San Francisco tutto il movimento, È una coincidenza non organizzata di bici che, pedalando, si vuole riappropriare degli spazi e delle strade. Quindi 18.30 ritrovo in Santissima Annunziata, alle 19.30 partenza per questa pedalata per la città. Riappropriamoci delle vie della città su due ruote e pedalando duro. Andando a venerdì 31 gennaio, invece, alle ore 9 abbiamo appuntamento in Piazza San Marco per il corteo queer studentesco organizzato dal collettivo Artemide. Questo è il primo corteo studentesco queer a Firenze, quindi è veramente un grande evento. Anche questo lo approfondiremo fra poco con il collettivo Artemide. Non vi staccate da Radio Wombat un secondo. Sempre venerdì 31 gennaio alle ore 17 all'Aula Magna di Scienze Politiche in via Serafini 3 Pisa, il collettivo Antonino Artaud presenta il libro Le scarpe dei matti di Antonio Esposito, edizioni ad est dell'Equatore. Ci sarà l'autore, appunto, Antonio Esposito, e niente, il libro Le scarpe dei matti, organizzato tutto dal collettivo antipsichiatrico Antonino Artaud di Pisa. Quindi, se volete farvi un giro verso Pisa venerdì, siete in tempo anche ad andare al corteo queer la mattina, diciamo. Sì. E poi, fra l'altro, se poi volete tornare di corsa, sempre venerdì 31 gennaio alle ore 21 presso Yam Sakine in via Ghibellina 14BR, che non sta per Brigate Rosse ma starà per B e Rosso, vi è la presentazione di una rivista che è Lo Stato della Città, con un redattore che è Luca Rossomando, e inoltre c'è un ricercatore presso l'Università di Ester, Stefano Portelli, e si parla di gentrificazione. Ripeto, venerdì 31 gennaio alle ore 21 in via Ghibellina 14B Rosso. Sabato 1 febbraio dalle 18 alle 22 presso IAM in via Ghibellina alle ore 18 ci sarà una presentazione di un libro, La città e il fantasma, dal muro di Berlino ai nuovi muri, con la presenza di Davide Grasso, che è l'autore appunto, che ha pubblicato diversi articoli giornalistici, scientifici, soprattutto, insomma, Stati Uniti, Israele, Palestina, Turchia, Iraq, Siria, insomma, l'autore di Evalen. Niente, ore 18 sabato 1 febbraio in via Ghibellina alle 14B. Poi si va a sabato 1 febbraio, si rimane a sabato 1 febbraio alle 22 al CPA Firenze Sud in via di Villa Magna, abbiamo Riscossa Hardcore Fest volume 4. Tanti i gruppi in programma dalle ore 22.30, preceduto alle 21 da una cena sociale, dalle 22.30 i concerti con Machete Firenze HC, Show of Force, First Brawl, Virtual Core, Vibral Core e Keep the Promise. Tutto questo per l'ormai quarta edizione della riscossa hardcore al CPA. Domenica 2 febbraio 2020 invece si sposta al Next Emerson in via di Bellagio 15 Firenze, perché c'è l'inaugurazione di un progetto molto interessante, Kinotto, scritto K-in-8, che sarà una nuova sala cinema presso il Next Emerson. Alle ore 20.45 è previsto il taglio del nastro e il brindisi di benvenuto, e una presentazione di un libro con l'autrice Martina Guerrini. Il libro si chiama Le cospiratrici rivoluzionarie russe di fine 800, lettere e memorie di Olimpa Kutuzova Fiero. Alle ore 22 invece ci sarà la proiezione di Resistance, la battaglia di Sebastopoli. Sì, si parla di Ucraina, di una, soprattutto, esatto, in particolare di una cecchina ucraina che combatteva ha ucciso una quantità di fascisti veramente incredibile. E voi chi siete? Sono un cecchino, una donna cecchino. Nel nostro paese le donne combattono in guerra insieme agli uomini. E quanti uomini ha ucciso? Nessun uomo, solo fascisti. 309. Boom. E con questo noi finiamo la rassegna degli eventi e vi rimandiamo alla punta.org se vi siete persi qualcosa, altrimenti riascoltate il podcast su wombat.noblogs.org. Allora, andiamo con un pezzo e poi a seguire gli approfondimenti con il collettivo Artemide e la questione medio orientale, con la voce che avete sentito la settimana scorsa, che è di Olmo o Omlo, che dir si voglia. Okay. Wombat! Wombat! In cui sono intervenute numerose realtà. Ok, no, partita roba che non doveva. Would I be awakened where the wrong side renders? But I did not. Would I be dangling toward demise? But I did not. Forgetting about the innocent splendors? But I did not. And rage blinded my eyes? But I did not. Could have slouched into deception? Could have just made it made more sense. But I did not accept the devilish invitation. But I did not. Should I just sit upon this fence? No. Won't let go. Taking the herald, I hear a harking. Against the boneyard, hounds are barking. Bed, just hating it. Almost managed to manifest. Tormented by stating it. A situation so self-obsessed. Sempre e obiettivamente la migliore. Che sto delirio. E come dice Samir in apertura, siamo nella merda. Siamo nella merda. Ok, eccoci. Perfetto, allora siamo al primo approfondimento della, di questa puntata della Trapunta con il collettivo Artemide. Buonasera. Ciao, ciao. E stiamo a parlare del primo corteo queer studentesco. Allora, intanto chi siete? Allora, intanto grazie per averci invitato. Prego. piacere. Allora, il collettivo Artemide in realtà è un collettivo neonato, non ha nemmeno un anno, è nato l'aprile dell'anno scorso da alcuni studenti e studentesse, perché di realtà queer o LGBT+, come si vuole, a Firenze ce ne sono, però non c'era una realtà del genere nelle scuole. A livello studentesco non c'era niente, quindi abbiamo detto, bella, perfetto, facciamo noi. Ci Bene, voleva. Quindi un annetto di vita, cosa è successo in questo anno? Siamo ancora in pochine, purtroppo, però tante assemblee settimanali, tanti smatti, in realtà tantissimi, però abbiamo parlato tanto, ci siamo confrontati tanto e comunque c'è stata un po' di via vai di gente, ci ha fatto molto piacere soprattutto che esistesse uno spazio per gli studenti dove anche rivolgersi in caso di bisogno, o comunque uno spazio sicuro dove sentirsi a proprio agio sempre. Ecco, questo spazio si trova esattamente? Allora, noi ci vediamo ogni martedì verso le 3 in Via del Leone Occupata, che gentilmente appunto ci ospita. E, parliamo tanto, quello sì, e appunto parlando anche tra di noi abbiamo sentito l'esigenza comunque di fare un corteo e di urlare proprio, di esporre a tutta a più gente possibile quello di cui parliamo in assemblea. Quindi non parlate e basta, nel senso che fate anche cortei, si può dire a questo punto. Allora, io una cosa te l'avevo detto, ti ho detto, siamo ancora pochine. Siamo ancora pochine o siamo ancora pochinu? Questo è un gran problema in realtà. Pochino asterisco, il pronome neutro sarebbe la U, però è un po', cioè, un po' strano, nel è senso, un po' strano, sì, cambiamo tanto, pochine, pochini, insomma, non ci facciamo problemi. Quando si può si usa l'asterisco, purtroppo l'italiano in questo è un po' una lingua bastarda, perché non cioè, bisogna usare sempre comunque un femminile o un maschile, è un gran problema quello della lingua. Bene, andiamo. Sì, è un bel problema, è vero, sono perfettamente d'accordo. È un problema, diciamo che è un problema culturale, e quanto sta succedendo, soprattutto nei confronti delle persone LGBTQ+. E, però io, ad esempio, personale opinione, i problemi culturali si inizia a affrontarli proprio da come si parla, dalle parole che usiamo, no? Quindi questo no, non vi insegno niente, anzi probabilmente siete voi che insegnate a me. Andando al corteo, si sta parlando di venerdì 31 gennaio alle ore 9 in piazza San Marco. Quali sono le esigenze che vi hanno portato a lanciare un corteo? Allora, sì, venerdì in realtà sarà più una rivendicazione per il Pride, che appunto ogni anno nel mese di giugno, famoso mese del Gay Pride, anche se non ci piace molto comunque la frase Gay Pride perché è un po' limitativa. Un po' escludente Gay Pride. Esatto, più che appunto dicendo solo Gay Pride sembra che escludi comunque tutte le altre sfumature comunque certo. Dell'essere. E appunto è un po' una rivendicazione perché appunto sono nati dai moti di Stonewall, quindi anche una rivolta contro la polizia, contro un sistema che considerava ogni orientamento sessuale diverso dall'eterosessualità, ogni identità di genere diversa dal cisgender, qualcosa di anormale. Quindi questo scontro con la polizia è appunto ricordato ogni anno a giugno. Però comunque è diventato qualcosa di capitalista, cioè, quindi commerciale. Esatto, con tutti gli sponsor, tutti i negozi, tanti negozi che appunto ci giocano sopra, specialmente con la nostra bandiera, quindi la bandiera arcobaleno, che è stata commercializzata tantissimo. E venerdì vogliamo rivendicare, faremo quindi il Pride come per noi dovrebbe essere veramente. Quindi prima di tutto è importante la data, quindi l'abbiamo voluto fare un po' in senso opposto. Ok, il Gay Pride, il Pride è a giugno, perfetto, noi lo facciamo d'inverno, a gennaio, quando fa freddo, per dimostrare comunque noi il resto dell'anno ci siamo, non spuntiamo così a caso a giugno. Certo, no, fra l'altro significativo quello che avete detto, no? Il Pride è diventato un evento commerciale, sono le magie del capitalismo che riesce addirittura a rendere commerciale anche gli eventi che un tempo erano di rivolta, o addirittura a volte anche gli eventi che le culture autogestite, le culture dal basso riescono a essere commercializzate poi attraverso i meccanismi tipici del capitalismo. Comunque voi nel vostro comunicato un po' rivendicate anche la necessità di azioni all'interno della scuola, nell'orario scolastico, nei programmi scolastici, giusto? Sì, assolutamente, perché comunque la scuola, il sistema scolastico ora come ora dovrebbe responsabilizzare, ma di fatto non lo fa. Abbiamo tantissimi casi, mi pare 11 diagnosi al giorno di HIV in Italia, è ai primi posti per diagnosi di HIV l'Italia tra gli stati europei, insomma siamo messi parecchio male, e la scuola comunque continua a evitare argomenti tabù come il sesso, e quindi appunto noi vogliamo assolutamente, cioè è proprio un bisogno per condurre una vita normale che ci venga insegnato come gestire una cosa delicata come il sesso, sia a livello tecnico, quindi prendere precauzioni adeguate, sia a livello personale. Vogliamo un'educazione sessuale che sia educazione affettiva, un'educazione al consenso, un'educazione alle differenze. Se viene fatta l'educazione sessuale ora come ora viene fatta malissimo. È una... E fra l'altro viene fatta da soggetti esterni al personale scolastico, giusto? Sì, vengono sempre, sì, associazioni che poi, all'interno, cioè, della scuola. Anche, è giusto comunque che, perché capita anche che vengano svolte dal personale scolastico non qualificato, a quel punto molto meglio che venga un sessuologo o una sessuologa a parlare di argomenti del genere, visto che insomma ne capisce molto di più di un professore che magari dice delle baggianate. Certo, no, infatti voi sul comunicato scrivete anche che vorreste una formazione specifica per i docenti, no? Per chi si approccia un po' anche, alla professione. Sì, anche per imparare a trattare gli alunni come persone diverse che hanno bisogni diversi a seconda dell'individuo, non bisogna generalizzare, non bisogna non bisogna comunque far caso delle differenze, non vanno ignorate perché sono una cosa preziosissima, vanno comunque trattati gli studenti tutti alla pari, quello sì. Non so, ma a volte mi viene in mente che la scuola ha dei problemi, forse questo passerà non in secondo piano ma in terzo, quarto, quinto, però queste azioni possono essere anche portate avanti dall'interno, cioè io presuppongo ad esempio che voi siete forse, magari non dico in grado di formare, cioè queste coscienze si possono formare anche in modo collettivo, quindi creare delle situazioni dove allargate possono essere delle buone già occasioni. Già il corteo, se tutto va secondo i programmi, dovrebbe terminare con una lezione di educazione sessuale e affettiva e al consenso anche. Quindi, corteo che terminerà? In Santo Spirito. Con un pranzo forse e appunto la lezione di educazione sessuale, perché se non ce la fanno loro ce la facciamo da sole. Quindi. Bravo. Ma a Firenze vi è stato fino a poco fa uno spazio autogestito, liberato, queer, non so se l'avete frequentato. Sì, assolutamente, sono il collettivo Squirt, sono state preziosissime, ci hanno supportato fin dall'inizio e loro sono davvero, ci hanno dato davvero una grande mano, sono state molto solidali. E purtroppo appunto hanno dovuto abbandonare lo spazio e di questo siamo dispiaciutissimi. Però comunque il loro progetto, il progetto sta andando avanti, ancora la forma non è così ben definita. Fra l'altro forse dovranno passare oggi probabilmente nella prossima settimana un po' a spiegare come si sta evolvendo, che cosa sta diventando, che cosa diventerà. Intanto vorrei che voi ricordaste i vostri contatti e la vostra assemblea, abbiamo detto che è settimanale. Sì, martedì alle 3 in via del Leone occupata. E come vi possono contattare? Instagram, Collettivo Artemide, tutto attaccato, e sempre Collettivo Artemide anche su Facebook. E su Facebook, bene. Sì. Bene, avete fatto un account sulla punta.org, sì. Quindi i vostri eventi a questo punto saranno presenti tutti. Bene, grazie. Io non so, avete altro da dire? No. Bene. Ok, allora noi andiamo avanti. Se volete rimanere, siete naturalmente benvenute. Mandiamo un pezzo e poi affrontiamo la questione medio orientale con Olmo, che non ha cuffie perché sono state rotte qualche tempo fa. Dai, con un pezzo dalla regia. Buon grippo. Via. Bravo. Da dove arrivi? Bravo. Sei distratto con Kobe Bryant? Ti fuzza. Sì, sì, sono distratto, sono distratto. Però va bene. sì, sì, la superiamo sta fase. No, non ero pronto, bastardo. Cioè, mi ha detto subito. Ne vuoi uno? Vuoi Rock in the Casbah? Sì. Va bene. Perché non Inshallah? Dici CCP? Punk Islam? Eccola, eccola. Te l'ho mandato. Rieccoci. Eccoci di nuovo in diretta. Questa volta abbiamo anche questa volta abbiamo un ospite. Anche questa volta abbiamo Olmo ospite. Oh, la settimana scorsa però stavolta. Quanto tempo? Oggi, buonasera a tutti. Però oggi è realmente di fronte a noi. La settimana scorsa era così lontano e ci ha dovuto mandare un messaggio registrato. Benvenuto, bentornato. Grazie, è bello, sempre bello essere qui con voi. Ma quindi se non sei solo qui con noi, sei anche nell'etere, considera questa cosa qua, quindi sei ovunque. Con i nostri milioni di ascoltatori. Con i nostri milioni di ascoltatori, migliaia di chilometri percorsi dalle onde medie che escono fuori dalla fantasmagorica antenna del Wombat. Chissà quanti ascoltatori ascolteranno le onde medie, perché non lo possiamo nemmeno sapere, noi non facciamo diciamo che non ci poniamo manco questo problema, si parte dal presupposto che ci ascoltino. La città ci ascolta. La città ci ascolta. Ah sì, te parti da questo presupposto. Certo, è così. Io tengo la radio Wombat accesa 24 ore al giorno. E ci pensi che in tutte le case questo avvenga, ovviamente. Case, ricorda un po' più il film, come che era, quello sul 77 Radio Alice, dove c'era il digossino messo lì ad ascoltarsi per forza la radio. Che poi alla fine sarà così. Da ragione a Radio Alice, il digossino. Caro digossino che ascolti Radio Wombat, tieni conto, giudica quello che diciamo in modo abbastanza imparziale. E vedrai che ci troverai qualcosa di vero, qualcosa probabilmente imparerai anche. E quindi, insomma, goditela. Non siamo l'unica trasmissione, naturalmente lo saprai, visto che ascolti 24 ore su 24. Puoi anche farci sapere qual è quella che preferisci, quale ti sembra quella migliore, quale, dove possiamo migliorare. Mi raccomando, scrivilo apposta a wombat@insiberia.net. Se vuoi scrivere su Facebook, scrivi su Facebook, ma lo caghiamo poco. Abbiamo un account Twitter, se vuoi, puoi scrivere anche lì. Instagram noi non ce l'abbiamo, sicuramente preferiamo le mail. Ma detto questo, caro digossino, adesso noi andiamo a parlare della questione medio orientale. È presente il Medio Oriente? No, noi in modo vago. No, risposto io per il digossino. Sì, però potrebbe anche avere ragione, perché il Medio Oriente sta subendo cambiamenti veramente giornalieri. Ogni giorno succede qualcosa e è molto difficile districarsi tra notizie vere, notizie false, notizie plasmate da un fronte o dall'altro. Quindi noi abbiamo qua un esperto, per l'appunto Olmo, che ci spiega un po', a partire da un evento sulla punta che è previsto per giovedì e che tratta proprio questo, la questione irachena. Cosa succede, cosa sta succedendo e cosa è successo nelle ultime settimane in piazza Tahrir? Esatto, appunto, come dicevi, la situazione in Medio Oriente si inserisce un po' in questa seconda fase delle rivolte nei paesi arabi, no? Iniziata ormai nel 2018, che un po' segue quella del 2011 delle primavere arabe, no? E l'Iraq ovviamente ne è il caso, direi, in questo momento più forte, sia per quello che sta accadendo, per quello che stanno facendo le piazze, e anche per quanto viene oscurato da parte di quella che è la stampa occidentale. Appunto, possiamo partire direttamente dal silenzio, no? Perché tutte avrete avuto notizie nei primi giorni dell'anno, no? Di questa specie di guerra mondiale in arrivo, della guerra fra USA e Iran, appunto, come se poi esistesse effettivamente questo confronto su questo. Ci sarebbe sì, da discutere. Letta, sì, sì, abbiamo iniziato l'anno con la possibile guerra mondiale, continuiamo l'anno con la possibile epidemia, probabilmente ci sarà peste e carestie ancora. Sì, le rane anche, secondo me mancano. Ma appunto, come sapete, i nostri media usano dare notizie spot, senza contesto, senza pre e senza seguito, in modo da che nessuno effettivamente ne possa capire niente, trarre una visione concreta. Quindi quella che è stata la narrazione è che c'è stato un attacco su un generale iraniano e una controrisposta di un bombardamento iraniano. Poi la questione è tornata nel buio. Allora, appunto... Sì, e fra l'altro anche queste... Io ho qualche notizia sulle rivolte irachene, l'avevo letta, però erano tutte... Anche perché poi alla fine il generale iraniano è stato ucciso in Iraq, vicino Baghdad, e con lui è stato ucciso anche una delle persone che sembrava uno dei punti di riferimento delle rivolte, e quindi era la notizia che io avevo tirato fuori dalle testate dei media, era che fondamentalmente l'Iran stesse guidando le rivolte iraniane, però Esatto, prego. Questa invece è esattamente la narrazione che ha cercato di costruire l'Iran e che per affetto dell'antiimperialismo contro gli USA, solo diretto contro gli USA, anche molti compagni, possiamo dire rossobruni, hanno sposato, negando praticamente quello che è la realtà dei fatti, ossia che le proteste nascono contro la spartizione del potere iracheno da parte delle potenze occupanti, che non sono solo quella USA ma anche quella dell'Iran, nel senso il governo che attualmente continua, nonostante le varie dimissioni, a governare l'Iraq, è un governo tendenzialmente eletto dalla parte del meridionale dell'Iraq, più popolosa, che è tendenzialmente sciita e legato, e questo governo è legato a quello che è l'Iran, all'interno di una serie di equilibri creati appunto dalla gestione americana NATO di quello che è, diciamo, seguito all'invasione. Quindi la situazione è esattamente l'opposto, e infatti appunto queste si inserisce, se andiamo a vedere quelle che sono le date, appunto queste proteste non sono iniziate ieri, sono iniziate il 1 di ottobre, sono iniziate a seguito di, dopo 5 giorni che una prima manifestazione è stata repressa con violenza di vario tipo, e da lì è stata chiamata questa prima mobilitazione. Sono andate avanti, sono caratterizzate e guidate tendenzialmente dai giovani, dagli studenti sia universitari che medi, che poi hanno, diciamo, guadagnato sempre di più il favore di tutte, diciamo, le varie componenti sociali, e hanno caratterizzato soprattutto a livello geografico Baghdad, appunto piazza Tahrir, però anche e soprattutto le città del sud, che sono le città sciite, appunto, e quindi sono in realtà quelle che erano un tempo la base elettorale di questi governo che attualmente si trova appunto a Baghdad, ma che ha perso completamente il sostegno di quella che è la propria base, soprattutto a seguito delle proteste stesse. Bisogna pensare che la controparte, diciamo, se guardiamo questa divisione settaria, i sunniti attualmente sarebbe quell'area che è appena e ancora territorio del conflitto con il ex califfato islamico, ora ridotto in forma di guerriglia, e la parte più a nord è invece la regione autonoma del Kurdistan. Quindi il sud è dove si viene prodotto il 90% del petrolio iracheno, e dove appunto una spartizione fra Iran e USA di quello che erano le cariche politiche, le risorse materiali, ha imposto comunque anche lì una realtà inaccettabile da parte delle varie generazioni. Fra l'altro, se non mi sbaglio, un po' così a memoria, le elezioni in Iraq sono state abbastanza di recente, era il 2019, se non mi sbaglio, forse il 2018, e il Partito Comunista aveva preso una buona percentuale, circa il 20%, se non mi sbaglio. Che ruolo ha il Partito Comunista all'interno di queste rivolte? Allora, devo dirti che su questo non ho grandi informazioni, perché è molto difficile riuscire a distanza a capire come si organizza questa compagine che è effettivamente e concretamente realizzata nelle piazze. Appunto è una cosa che è partita a livello giovanile, principalmente appunto contro un apparato già strutturato per essere settario, diviso tra appunto sciiti e sunniti per mettere gli uni contro gli altri, e quello di cui in realtà veniva vissuto dai cittadini era una enorme corruzione, scarsissimi servizi, una disoccupazione diffusissima, una povertà estrema, e tutto questo dopo gli anni della violenza che sono seguiti all'occupazione americana e NATO. Quindi diciamo che se l'Iraq è stato considerato dalla Klein, quando parla della famosa shock therapy, no? Come il caso ultimo, questi ragazzi sono quelli che sono nati durante lo shock. E quello che dice lei a conclusione un po' del suo saggio è che lo shock deve durare per poco tempo, deve essere continuato, altrimenti perde i suoi effetti. E io penso che si veda molto bene in questi ragazzi e in queste ragazze, perché dopo ormai siamo a quasi 700 morti e più di 25.000 feriti, ancora e sempre di più scendono nelle piazze, si confrontano con le pietre alla polizia e alle milizie armate, quindi mi sembra proprio di... Stanno bloccando le vie di comunicazione... Sì, diciamo che quello che sta avvenendo rispetto a quella che è una sfida sul piano della forza militare è quello appunto di andare ad agire, a bloccare dei punti nodali, e mano a mano che la protesta si estende sempre più punti vengono bloccati. Quindi le proteste si tengono, sono nate nelle piazze dove sono stati formati dei sit-in permanenti, delle tendopoli, però nel momento in cui viene lanciata una mobilitazione bloccano le entrate della città, bloccano i ponti, bloccano le autostrade e quindi di fatto paralizzano il paese. Questo è, e dopodiché le barricate vengono difese appunto con quelle che sono uno scontro che potrebbe fare appunto manifestanti contro la polizia, anche perché penso che il popolo iracheno sia ben cosciente, per essere un posto dove le armi sono estremamente diffuse, il fatto che chi protesta non le abbia ancora usate dimostra una grande coscienza, nel senso che è evidente che a loro è chiaro che se passassero su un livello della guerriglia, della lotta armata, si troverebbero comunque a confrontarsi direttamente con tutti gli eserciti che attualmente hanno i loro stivali in Iraq, che direi che sono un pelino più potenti rispetto a quanto potrebbero essere loro. Sì, o comunque sarebbe un massacro e loro ne hanno visti tanti. Penso che appunto sia veramente consiglierei a chi ascolta di cercarsi Bella Ciao Iraq Revolution, perché appunto hanno assunto dopo poi anche di passaggio, no? Sappiamo Bella Ciao nel nord è conosciuto per i curdi che l'hanno tradotta e l'hanno cantata da sempre le unità del PKK e da lì è diffusa, e invece i ragazzi che sono in piazza adesso l'hanno conosciuta dalla serie della La Casa di Carta, La Casa di Papello, sì. E quindi dall'inizio delle proteste è stata fatta una specie di traduzione di Bella Ciao, e se uno cerca appunto su YouTube quello che è veramente, non so, io penso che sia veramente forte da vedere, perché sono le immagini di queste proteste, e quando ti dice e se io muoio e eccetera, cioè non lo so, io mi sono trovato il giorno in cui in questi giorni in cui si vedono queste piazze di sardine che cantano Bella Ciao e non si capisce bene con quale, un po' la differenza, con quale principio, io mi sono trovato a guardare questi video e veramente a sentirci. Senti, ma fonti di informazione sicure su questo tema dove si trovano? Allora, guarda, praticamente nessuna. Almeno io quello che sono riuscito a costruirmi è una serie di canali di Twitter e di comunicazione dei manifestanti stessi, perché nel momento a seguito del bombardamento iraniano in cui i manifestanti sono tornati ancora in piazza a dire noi non vogliamo né l'Iran né gli USA, e a chiedere che entrambe le formazioni armate se ne si levassero di torno, che venissero smantellate le milizie sciite filo iraniane, che non sono iraniane ma sono guidate, telecomandate, diciamo, e si sono completamente chiusi qualsiasi varco della comunicazione. E addirittura, per dire, la settimana scorsa e anche questa notte sono stati tirati dei razzi sull'ambasciata USA. E ora oggi un po' di più, ma la settimana scorsa non è uscita la notizia, no? Mentre in quelle altre occasioni è stato super amplificato. Bene, quindi le fonti sono o i canali che dicevi oppure Radio Wombat a questo punto. Radio Wombat e stiamo provando da Rise Up for Rojava a far uscire appunto quello che riusciamo a mettere insieme. No, sì, no, ora non so, poi volevo farti un paio di domande su Rise Up for Rojava, però magari forse poi avevi altre cose da illustrare. Sì, no, vabbè, potrei semplicemente brevemente, giusto per fare capire quali sono le dinamiche, fare un brevissimo elenco di quello che è successo, giusto? Vai. Appunto, le proteste iniziano il primo di ottobre, quindi stiamo parlando di un bel po' di mesi fa. e c'è un periodo di più, cioè di riduzione di queste proteste dopo una prima, diciamo, sembrava un minimo ascolto da parte del governo, e poi si riattivano novembre, dicembre, sempre raggiungendo sempre più maggiore forza, arrivando al 29 di novembre con le dimissioni del primo ministro. E a seguito di altri attacchi che portano in piazza sempre più gente, ha invece il 26 dicembre il presidente che consegna una lettera di dimissioni, anche se senza poi dopo concretizzarle, e non trovandosi in grado di eleggere un primo ministro che sarebbe stato accettato da chi protestava. Allora, questo è il 26 di dicembre. Il 28 di dicembre viene ucciso un contractor americano durante un attacco con un razzo e feriti alcuni militari. Il 29 dicembre gli USA rispondono, da parte ovviamente delle milizie filo-iraniane, e il 29 di dicembre gli USA rispondono bombardando una base di Qatar e Hezbollah al confine con la Siria, proprio dove si sta cercando di creare questo corridoio famoso che non piace per niente a Israele, perché è questo corridoio di terra che passa dall'Iran attraverso l'Iraq, attraverso la Siria fino al Libano, quindi collega Hezbollah all'Iran e porterebbe potenzialmente le forze dell'Iran direttamente sul confine israeliano. Quindi questa è la grande cruccia di Israele che fa grandi pressioni, insomma. Okay. Quindi il 29 dicembre loro rispondono facendo 25 morti tra queste milizie, e il 31 dicembre gli iraniani organizzano una protesta che scimmiotta quella degli studenti, che va ad attaccare il consolato americano a Baghdad. Il 3 di gennaio, dicendo appunto: voi ormai non potete più fare niente, noi abbiamo il controllo dell'Iraq. E quindi ovviamente scatenando dall'altra parte la reazione di Trump, che abbiamo visto col 3 gennaio appunto con i droni sulle mani, e poi l'8 di gennaio la risposta di nuovo iraniana. Allora, giusto per vedere che questa escalation non inizia con l'uccisione di Soleimani, ma nemmeno con l'uccisione del contractor, ma semplicemente con la tensione in aumento, che è generata tendenzialmente dalle proteste che fanno di fatto collassare le strutture del governo, che erano quelle che mantenevano l'equilibrio tra le due forze nello spartirsi l'Iraq. Sì, questo era semplicemente per dare un'idea. Adesso appunto le cose continuano, addirittura gli sciiti filo-iraniani hanno chiamato loro dopo aver tentato appunto di strumentalizzare di nuovo le proteste, a non manifestare più, però questo non ha cambiato, se non che ora le milizie stanno attaccando negli ultimi due giorni in maniera veramente indiscriminata. Ieri pomeriggio c'erano appunto già 4 morti e 230 feriti, stanotte è stato ucciso un altro manifestante, e appunto subito dopo questa dichiarazione le milizie e le varie forze di polizia, che non sono poi ben così distinte in quel contesto, sono andate a incendiare tutte le tendopoli dei sit-in che c'erano nelle varie città, e stanotte in particolare a Nassiriya sono arrivati appunto varie camion appunto di milizie armate, hanno incendiato il sit-in, hanno sparato appunto sulla folla facendo diversi feriti e un morto, e questa cosa si è ripetuta a Baghdad. Però appunto quello che si vede poi in risposta è che, se guardiamo le notizie di questi minuti, è che sono state incendiate le sedi di Qatar Hezbollah, che sono state incendiate le sedi delle milizie, perché la popolazione appunto comunque sia, ogni volta che viene usata la violenza, risponde con ancora maggiore forza, e quindi insomma quello che sta succedendo da parte loro è una prova veramente di forza e di coraggio veramente inimmaginabile per noi, che però rimane un po' isolata dal fatto che non ci sia un sostegno da qua, no? Sì. Ecco, e infatti poi andando a Reza Projava, perché organizzerà appunto questo giovedì un incontro in Brunelleschi all'università, proprio per spiegare. Ci sono due ospiti, fra l'altro, giusto? Sì, allora, una è l'autrice di questo documentario che è stato girato alla fine dell'anno scorso, quindi appunto alle proteste già iniziate, che si chiama Iraq, la gioventù in prima linea, e si chiama Arianna Pagani, ed è appunto che ha prodotto appunto questo documentario. E l'altro è Faisal Yeber, che è un attivista e un archeologo iracheno, e che appunto verrà un attimo a raccontarci in maniera più diretta. E questo appunto è un tentativo di... Per chiarire un po' la questione. Per chiarire, anche perché appunto uno dice: come mai una cosa come Rise Up for Rojava si va a mettere in mezzo su cose che... Infatti è la domanda che ti volevo fare io. Scusa se ti rubo il lavoro. No, prego. E appunto la questione, l'ho detto anche ieri in piazza, ieri era, no, erano i 5 anni dalla liberazione di Kobane. Sì, l'abbiamo ricordato all'inizio puntata. Bravi. E appunto, quando andiamo a vedere quello che è il modello del confederalismo democratico, quello che anche ha scritto Ocalan, no? non è una teoria politica che non è stata presentata come la soluzione curda, ma è stata presentata come una soluzione per il Medio Oriente, una soluzione che potesse andare bene appunto per tutto quel mosaico di popoli che gli stati nazionali hanno devastato appunto e che continua a subire. Sì, una cosa che un po' travalichi i confini, le frontiere, il concetto proprio di stato-nazione, in verità. Esatto, e quindi appunto noi siamo sempre in questa zona, e appunto ci siamo di nuovo davanti a quello che nel 2011 è stato l'inizio della Siria, ma anche l'inizio dell'ISIS, perché l'ISIS è nato poi dalla repressione armata applicata sempre dalle stesse milizie sciite contro i sunniti, che a quel punto si sono armati e hanno preso una via settaria. In questo caso questa cosa non sta succedendo, in parte perché sono gli stessi sciiti a venire colpiti dalle milizie sciite, e in parte perché evidentemente un po' la storia insegna, per fortuna. Senti, Reza for Java è un'assemblea che è nata a Firenze, è nata in Italia, è nata nel mondo. Come funziona? Rise Up for Rojava è una campagna che è nata dalla comune internazionalista appunto di Derry, che è giù in Rojava, che ha deciso di strutturarsi appunto a partire dalla evidente minaccia turca, che poi si è andata a concretizzare con l'attacco del 9 di ottobre. E che quindi si è strutturata a livello mondiale, diciamo, secondo questa chiamata, su livello europeo, sulle varie scale nazionali e poi locali, quindi attraverso, diciamo, quelle che sono state poi le mobilitazioni di quest'autunno sono state create varie assemblee nelle varie città. E niente, a Firenze appunto è attiva, sta lavorando su vari temi, organizzando una serie di iniziative, preparando le varie campagne. E si ritrova? E si ritrova all'SMS di Rifredi il giovedì. Ora è stata chiamata per il 6 di febbraio un'assemblea pubblica, chiamata pubblicamente. Adesso io questa parte non me l'ero preparata e sono... Vabbè, comunque è stato caricato un evento sulla punta da Reza for Rojava, quindi chiunque voglia può andare a consultarlo. Alle 18.30, così poi lo riesco anche a dire, alle 18.30, giovedì 6 febbraio, all'SMS di Rifredi. Avete un contatto di Reza? C'è una pagina su Facebook. No, perché? E poi c'è anche un canale Telegram. Ah, e Telegram, va buono. Dai, ci vediamo. Vabbè, dai. Li perdoniamo? No, sì, no, no, basta. Cattivissimi. Va bene, bon. Sollazzaci, dai, regista. Sollazzo? Sollazza. Allora scatta. Pezzo un po' kebabo. No, avevi rotto con gli altri. Pezzo un po' kebabo. No, metto questo. Bella ciao. Sì, bella ciao. Bella ciao in curdo. Sì, ciao, bella. E rientriamo dopo lo stacco medio orientale. Ah, eccoci, non abbiamo mandato la canzone medio orientale, però la canzone era di Tame Impala e si intitola Feels Like We Only Go Backwards, sembra che andiamo sempre all'indietro, invece vanno avanti un sacco di cose in questo pazzo mondo. Ci siamo scordati una cosa a inizio puntata, parlavamo delle occupazioni, parlavamo del problema abitativo in contesto fiorentino, parliamo allora del premio Bargellini, che è giunto ormai alla sua seconda edizione. Visto il successo della prima edizione, è stato riaperto un bando dal 15 novembre che si chiuderà il 15 di febbraio, quindi non è che ci sia tutto questo tempo. Tendenzialmente, se non avete scritto nulla, solo cavoli vostri. E il premio 2020 si propone di portare all'attenzione pubblica le tematiche dell'abitare e dell'immigrazione attraverso i lavori di tesi, di allievi di corso di laurea magistrale e di dottorato che affrontino con intelligenza critica e capacità innovativa la questione delle pratiche di resilienza e auto-organizzazione sociale e abitativa come risposte a processi e fenomeni di gentrificazione, esclusione abitativa, allontanamento di popolazione dai centri e da altri territori, controllo securitario. Le tesi di laurea magistrale e dottorale dovranno essere inedite oppure discusse negli ultimi 3 anni, ovvero dal 1 gennaio 2017. La scadenza del bando, l'abbiamo già detto, il 15 febbraio 2020. E il premio. Premione. Allora, viene associata al premio la pubblicazione digitale edita dalla Fondazione Giovanni Michelucci del lavoro di tesi vincitore. E verrà distribuita sulla pagina web di Cambio, rivista sulle trasformazioni sociali, e diffusa poi sui vari siti istituzionali. C'è anche un millone, se non mi sbaglio, in palio. Ci sono 1.000 euro in palio, e finanziata sia dalla famiglia che dagli enti promotori e da Covas Firenze. Per chi non lo sapesse, Lorenzo Bargellini è stato il leader del movimento di lotta per la casa negli ultimi decenni, è scomparso alcuni anni fa. E infatti se ne sente abbastanza la mancanza all'interno della città. Se ne sente decisamente la mancanza. La proclamazione ci sarà sabato 4 giugno, la sede sarà da definire, comunque il 4 giugno sapremo il vincitore o la vincitrice, il vincitoru del premio Bargellino. Sì, per maggiori informazioni c'è un bando vero e proprio, è scaricabile da internet, si trovano tutti i dettagli, compresa la commissione che giudicherà le tesi, e quindi l'invito è quello a consultare, insomma, esso stesso è la fonte primaria. Allora, noi direi che in verità siamo in chiusura, forse volevamo aggiungere una notizia, in particolare per l'amico di Gossino, ora quando la nostra ospite... l'amico di Gossino, è stato lui forse a organizzare tutto. Sì. Avevamo una notizia per l'amico dall'amico di Gossino, no? Sì, esatto. Lì c'è un microfono. 1, 2, 3, 4. La trapunta. Cosa succede giù in città? Ma chi lo sa? Ma chi lo sa? Quel che di bello c'è in città lo trovi sulla punta. La trapunta.